Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, in primo luogo, chiaramente, il Consiglio dei Ministri. IMU congelata, reperiti alcuni soldi per la cassa integrazione, è già... qui c'è la prima nota, se vogliamo, un po' polemica, nel senso che i soldi reperiti sono meno di quanto non ci si attendesse, perché coprirà solo la cassa integrazione per i prossimi... tre mesi, anche se il Premier ha detto che il rifinanziamento è per 1 miliardo, però per quello che si è visto la cassa integrazione viene coperta per 3 mesi. Il problema, e qui lo sottolineano soprattutto i sindacati, è che i soldi utilizzati per reperire la copertura della cassa integrazione in deroga, circa 800 milioni, anzi metà di questa copertura, sono soldi dei lavoratori, verranno resi infatti dagli incentivi ai premi aziendali e dai soldi dei fondi per la formazione professionale. Angeletti, il segretario della UIL, dice che questo è inaccettabile, però insomma il ministro Giovannini ha promesso che i fondi per la produttività saranno comunque reintegrati. Per quello che riguarda invece la scadenza dei contratti per i precari della pubblica amministrazione, slitta dal 31 luglio al 31 dicembre, e per quello che riguarda l'IMU c'è una deducibilità anche dell'imposta pagata sui capannoni e quindi sugli immobili per attività produttive. Questo è in soldoni. La sospensione dell'IMU vale anche per i terreni agricoli, tra l'altro, e i fabbricati rurali. Questo secondo la bozza del decreto. Lo stop all'IMU per la prima casa è fino al 15 settembre. O si riuscirà a riformare l'intero settore della tassazione sulla casa, ha detto il governo, entro il 31 luglio, oppure continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e la rata dell'IMU, la prima rata, andrà comunque pagata il 16 settembre. Quindi o ci sarà una riforma o semplicemente slitta fino al 16 settembre. E questo è un elemento. Tra l'altro c'è anche il no al cumulo dello stipendio per i parlamentari che hanno assunto funzioni di governo, questo era già anticipato. Il ministro dell'economia Saccomanni ha detto che le misure decise oggi sui debiti della pubblica amministrazione, ma prese anche dal precedente governo, sono un insieme complessivo di misure che va a sostegno dell'attività economica, e nulla va ad alterare le stime delle principali organizzazioni internazionali che prevedono una ripresa della crescita a partire dal terzo e quarto trimestre e una ripresa l'anno prossimo. Anche di questo parleremo, dopodiché parleremo questa volta, come promesso, del pacchetto occupazione giovani che il ministro Giovannini vuole portare a giugno al governo. E anche le richieste che arrivano dalle agenzie interinali, e poi faremo anche un'analisi politica di questo Consiglio dei Ministri in un giorno in cui la borsa sostanzialmente è calma, positivamente calma, nel senso che Milano guadagna lo 0,26, Parigi più 0,55, Francoforte più 0,20, Londra mezzo punto percentuale di rialzo, l'America lo 0,32%, l'euro è leggermente debole rispetto alle medie di questi ultimi mesi, a 1,2829, bene Pirelli più 3,60, Banco Popolare più 3, Popolare di Milano più 1,70, Fiat Industrial più 1,30 come Toz ed Estima Microelectronics, l'1,20 lo guadagna Parma, per l'1% la Popolare Emilia Romagna e lo 0,80 lo guadagna Eni. Fronte opposto invece Luxottica meno 1,80, Fiat meno 1,5, Saipem meno 1,30, Buzzi Unice meno 0,70 come Prismian e Mediobanca. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Le notizie in breve. Non si arresta la caduta dell'oro dopo i record toccati nel 2011 e nel 2012. Da inizio dell'anno l'oro ha già perso il 18% del suo valore. Siamo sempre a livelli molto alti rispetto ai livelli precedenti la crisi, quindi precedenti 2008, quando viaggiava tra i 700 e 800 dollari l'once. Qui siamo comunque a 1370 dollari l'once, a 77 per la precisione. Comunque meno 18% da inizio anno e siamo a 7 giorni di ribassi consecutivi. Il petrolio resta a 95 dollari al barile, ma si estende l'indagine di cui abbiamo parlato ieri della Commissione Europea su presunte manipolazioni delle quotazioni petrolifere, che sinora ha interessato i gruppi britannici Shell, British Petroleum e quello norvegese Statoil, perché informazioni sono state chieste anche alla raffineria finlandese Neste Oil e in merito in questo caso a possibile alterazione del mercato di biocarburanti. E tutto nasce dalla denuncia del produttore ungherese di biocarburante Pannonia Ethanol, che ha affermato di essersi rivolta appunto alla Commissione Europea dopo che l'anno scorso l'agenzia Platz gli aveva negato il diritto di partecipare alla fissazione dei prezzi. Già ieri la nostra collega Sissi Bellomo bene ci ha spiegato quanto opaco sia il modo in cui Platz, questa agenzia, determini il prezzo reale del petrolio, della contrattazione del petrolio. Passiamo all'Europa, dove ad aprile il mercato auto è tornato a crescere di poco, ma più 1,8%. In realtà bene soprattutto la Spagna, più 11%, la Gran Bretagna più 15%, Germania più 3,8% nelle immatricolazioni, Francia meno 5%, Italia meno 11%. Le immatricolazioni del gruppo Fiat ad aprile in Europa meno 9,8%. Pesa soprattutto il calo di Alfa Romeo, meno 33%, di Lancia meno 19%, Fiat fa meno 4%, bene invece Volkswagen più 10%, Renault più 5%, male Peugeot Citroën meno 10%, BMW meno 3%, Toyota bene più 5%, Opel più 2%. E la quota del mercato europeo di Fiat nei 27 paesi dell'area euro scende ad aprile al 6,3%, che è più bassa rispetto al 7% di un anno fa, ma un po' più alta rispetto a marzo, quando era del 6%. Buone notizie, anche se poche, arrivano dalla Spagna. La Grecia, lo ricorderete, ha ottenuto una settimana fa un aumento del suo voto da parte di Fitch sul suo debito. La Spagna oggi, per la prima volta nella sua storia, e cioè dal 1971, c'era ancora la dittatura di Franco se non ricordo male, ha segnato un avanzo commerciale, cioè ha esportato più di quello che ha importato, un surplus commerciale praticamente che che permette poi di ridurre il deficit complessivo a 4 miliardi. Perché questo? Perché è riuscita a aumentare le esportazioni del 3,9% e a diminuire del 7% le importazioni. Ed è arrivata anche Goldman Sachs a rivedere tutte le stime a ribasso per il 2013. Quest'anno l'Italia, ma anche la Germania, cresceranno molto meno del previsto, meno 1,7% per l'Italia, e che vede però confermato un più 0,4% l'anno prossimo, crescita zero per la Germania, da un più 0,4% si va a un più 0,1%, la Francia in recessione quest'anno, meno 0,6%, e anche la Spagna meno 1,7%. Per quello che riguarda invece l'Italia, segnalo che vi è stato un vero e proprio crollo della produzione nelle costruzioni a marzo, un settore molto molto penalizzato, quello delle costruzioni, dell'edilizia, bilancio negativo, meno 21% rispetto a marzo dell'anno scorso. E a chiedere che l'Europa oggi abbia una politica unitaria comune per la crescita è anche il presidente Confindustria Squinzi, In un'intervista al Sole 24 Ore dice: l'Europa deve aprirsi agli investimenti e alla crescita, perché solo in questo modo si può battere la disoccupazione. Senza decisioni in tempi rapidi si rischia moltissimo. Oggi l'Europa è l'unica area dell'economia globale in sofferenza. L'euro continua a squinzi, resta il grande punto di forza d'Europa, lo strumento che ci tiene assieme, e vedo invece la Commissione Europea un po' troppo frammentata e confusionaria. In effetti io lo dico a tutti quelli che, cioè, ognuno può avere le idee che vuole, ma sarà un caso, di tutte le aree geoeconomiche al mondo noi siamo l'unica che si è beccata la seconda ondata di recessione. A questo punto il 2013 andrà così, per cui forse qualche politica l'abbiamo sbagliata, no? Visto che poi so benissimo le obiezioni, il Giappone sta drogando la sua economia, vediamo se riuscirà a rendere più competitivo anche il settore privato oltre che dare soldi del settore pubblico. So benissimo l'obiezione nei confronti degli Stati Uniti, che ha imbarcato molto deficit, tutto quello che volete, ma fatto sta che lì la disoccupazione è tornata a scendere, l'economia a crescere, qui ci siamo beccati la seconda ondata di recessione. 349-238-6666 per i vostri sms, appunto la pagina di Focus Economia su Facebook. E non potevamo farci mancare anche oggi il nostro appuntamento sullo spreco o le cattive abitudini di chi amministra i soldi pubblici, i soldi di tutti noi. Abbassare, non sarebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Drag e più. Allora, mentre scopriamo che, anzi, viene confermato e torna a essere il numero uno al mondo quanto a ricchezza Bill Gates, 72 miliardi e 700 milioni di dollari il suo patrimonio, più 16% rispetto all'anno scorso, questo è l'indice Billionaire Index, l'indice dei miliardari di Bloomberg, ha superato il messicano Carlos Slim, ed era dal 2007 che non era primo in classifica, adesso sarà contento. Gli italiani, il primo degli italiani è al 27esimo posto, è Michele Ferrero, e quindi l'inventore della Nutella e del cioccolato Kinder, ha un patrimonio di 23 miliardi e 200 milioni di dollari. Più in basso, al 37esimo posto, l'altro unico italiano presente, ossia Leonardo Del Vecchio, il fondatore e padrone della Luxottica, con 18 miliardi e 600 milioni di dollari. Ma questa è la classifica dei ricchi, ma in realtà venendo dagli sprechi della nostra pubblica amministrazione, oggi la Consip ha indetto che l'ente che deve fare le gare, diciamo, per l'approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha indetto la prima gara per la fornitura di auto blu con allestimento di scatole nere di serie, in modo da poter monitorare i consumi, le percorrenze, ridurre i costi di assicurazione e ottimizzare l'utilizzo delle auto blu della pubblica amministrazione. Deve soddisfare questa gara i criteri della spending review per le pubbliche amministrazioni, comprese le forze di polizia, gli ospedali e le ASL. Però nel frattempo i comuni e le regioni, ma le regioni soprattutto, sono alle prese con i vitalizi, perché è cambiato il consiglio regionale. Pensate che a Milano il Pirellone deve trovare, nella regione Lombardia, deve trovare 9 milioni, cioè 10 milioni di euro per i contributi della pensione, 5 milioni di euro, 4 milioni e mezzo per le liquidazioni. Tant'è che dovrà approvare una variazione di bilancio per far fronte alle richieste economiche di 66 ex consiglieri e assessori regionali. La prima voce riguarda i vitalizi, quasi 10 milioni di euro. E tutti hanno fatto richiesta perché, vista l'incertezza sulla tenuta del trattamento pensionistico, è meglio passare alla cassa in anticipo e ottenere indietro i contributi versati nella scorsa legislatura, e poi ci sono 5 milioni di euro per far fronte alle indennità di fine mandato dei 66 pensionati del Pirellone. Problema analogo, lo abbiamo raccontato ieri, c'è la Regione Veneto che deve trovare più soldi, più milioni di quelli previsti per le indennità di fine mandato. Posso dire una cosa? Ma perché paghiamo l'indennità di fine mandato? Cioè, alla fine non è un lavoro, uno fa il consigliere regionale per un mandato, viene pagato giustamente alla diaria, quello che vuole, ma è un servizio quello che uno sta facendo, per cui è giusto che venga pagato, è giusto che abbia un rimborso spese, ma anche l'indennità di fine mandato come un lavoratore che lavora per 25-30 anni mi sembra eccessivo, boh. Nel frattempo una buona notizia, tra virgolette, arriva dal comune di Padula, in provincia di Salerno, dove il sindaco Paolo Imparato ha licenziato un consigliere comunale. Lui si chiama Domenico Bianco, è un apprezzato professionista, era eletto tra l'altro nella lista civica del sindaco, lavora in Svizzera, ma per questo motivo non si era mai presentato alle assemblee municipali. Praticamente ne aveva saltate 15 su 15. Il caso è finito anche in prefettura con un esposto. Alla fine il sindaco ha licenziato durante l'assemblea municipale dopo aver avviato una procedura di decadenza. La cosa bellissima è la risposta di Domenico Bianco, il quale dice: avete preso una decisione politica, il mio interesse per Padula non è mai venuto meno. Sì, facciamo notare, meno male che aveva l'interesse, non è venuto una volta al consiglio comunale in un anno, figurati se non avesse avuto interesse per Padula. Oh, il comune di Foggia, perché il comune di Foggia ha fatto un primo taglio ai costi della politica, nel senso che cosa succede quando uno lavora ma fa anche il consigliere comunale? Il comune deve rimborsare poi il datore di lavoro ogni volta che il consigliere comunale partecipa a una giunta. Allora l'assemblea ha deciso, pur con molti mal di pancia, una modifica del regolamento per cui è finito il tempo delle riunioni permanenti delle 8:30 alle 13:30. I consiglieri almeno 2 ore al giorno dovranno andare sul posto di lavoro, e anche quando hanno appuntamenti al comune, e non potranno più usare le riunioni nel palazzo comunale per l'esercizio dell'attività politica come alibi per non andare al lavoro, perché i consiglieri possono riunirsi tutti i giorni solo dalle 11:15 alle 13:15, quindi non possono più saltare tutta la mattinata. E voi dite vabbè. Beh, qualcosa si risparmia, perché il comune di Foggia dà ai datori di lavoro di questi consiglieri 180.000 euro annuo di rimborsi, risparmierà il 60%. Si poteva però risparmiare un po' di più, lo dico al comune di Foggia. Perché? Perché se invece che dire le riunioni le farete solo dalle 11:15 alle 13:15, aveste detto vi saranno solo 2 giorni a settimana per fare le riunioni del consiglio, si sarebbe risparmiato qualche altro centinaio di migliaia di euro, perché il comune spende quasi 600.000 euro all'anno di gettoni di indennità. Il gettone di 80 euro è legato alla presenza, indipendentemente se tu resti 5 minuti, 1 ora o 4 ore, per cui il risparmio vero si sarebbe avuto se si fossero raggruppati i giorni del consiglio comunale. Tra l'altro non si sono nemmeno ridotte le stanze destinate alle commissioni consiliari e al personale dipendente, sono stanze che restano vuote ma che comunque assorbono personale dell'ente. Andiamo in Veneto. Allora, la procura della Corte dei Conti ha fatto delle indagini su alcuni consiglieri regionali del Veneto su spese del 2011. Beh, ce n'è una che è carina. Paolo Santin, ex consigliere del PDL della Regione Veneto, si è fatto rimborsare una cena da 1.200 euro al ristorante Osteria Vecchia Cecchini a Pasiano, vicino a Pordenone, paese dove Santin vive, di questo anche sindaco, un ristorante bello perché ha una stella Michelin, insomma per 3 coperti 1.200 euro, mi sembra un po' cara, 3 coperti, 4 antipasti, 6 primi piatti e 6 secondi, ma come fanno a essere 3 coperti, 6 primi e 6 secondi? O hanno fatto a turno. Vabbè, dalla catalana di pesce a 200 euro, la tartare di manzo a 100 euro, il caffè sono 7, ma quanti erano sti coperti? 3, 7, 6? Boh. Poi erano i 7 nani, facevano metà, non lo so, non capisco. le bottiglie di vino 4,70, però è da 70 euro, da 140 euro, da 150 euro, da 160 euro a Saint-Tin. Un po' il vino lo conosco, qui andiamo dalla Marone, dai Brunelli di buona annata in su, non è che proprio abbiamo lesinato. E poi 4 carici di vino per 150 euro, appunto 1300 euro, ne ha fatto lo sconto, ne ha fatti pagare 1200, e la Corte dei Conti gli chiede a Saint-Tin di giustificare nel dettaglio perché ha speso questi soldi, ma perché ha speso altri 10.000 euro in pranzi e cene nel corso del 2011. Per inciso, Saint-Tin è anche indagato con l'accusa di peculato dalla Procura di Trieste per un solo scontrino del 20 novembre 2010 di 410 euro per articoli sportivi, che io vorrei capire che cosa c'entrino con l'attività politica del consigliere Saint-Tin. No, non lo so. Bella invece l'iniziativa ad Agrigento, dove il consorzio turistico Valle dei Templi offrirà un soggiorno gratuito nei suoi alberghi a chi, venendo fuori dalla provincia, vorrà prendere parte alla manifestazione Riprendiamoci Punta Bianca, ossia domenica 19 maggio i volontari ripuliranno la località balneare di Punta Bianca, e l'offerta è quella di una notte gratis in albergo. Chiudo con il maxi sequestro di beni ad Angelo Balducci. Qualcuno se lo ricorda Balducci? Ex provveditore alle opere pubbliche, 12 milioni di euro gli hanno sequestrato i finanzieri di Roma, i carabinieri del ROS. Case, autoveicoli, motoveicoli, quote societarie, conti bancari. E oltre a Balducci erano intestati la moglie Rosanna Tau e i figli Lorenzo e Filippo. E Balducci è imputato di associazione a delinquere e, assieme all'imprenditore Diego Anemone, di reati di corruzione in relazione agli appalti pubblici per i grandi eventi, ossia i mondiali 2009, il G8, la Maddalena, le celebrazioni dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Devo aver detto Veneto invece che Friuli, scusatemi, chiedo scusa ai veneti per quello che riguarda le spese del consigliere, ex consigliere Paolo Saint-Tin, Friuli Venezia Giulia. Dopodiché Veneto o Friuli, comunque è giusto attribuire la regione corretta. Vi vorrei capire come si fa a... Io veramente vorrei capire da Saint-Tin come si fa a mangiare, al di là della spesa di 1200 euro, avere tre coperti vuol dire tre persone sedute, però uno mangia 4 antipasti, 6 primi piatti, 6 secondi, 7 caffè, 4 bottiglie di vino, più altri 5 calici di vino che fa la quinta, e un altro calice ancora. Allora, in 3 con 6 bottiglie, 6 primi, 6 secondi, 7 caffè ma come siete usciti da sta roba? Questa che nervosi, ubriachi nervosi, perché satolli, ubriachi nervosi, un mix di sensazioni. Sospetto è lei che non fosse solo in 3, su. Volevo solo sapere dove vi mettevate gli altri 4. Boh. Va bene, dai, andiamo invece con la borsa, che è meglio, nel senso che oggi comunque la borsa è positiva, e poi arriviamo all'analisi, ampia analisi del Consiglio dei Ministri, Cassa Integrazione e quant'altro. Non vi dico i messaggi che stanno arrivando. La borsa più 0,35% Milano, più 0,35% anche Francoforte, più 0,56% Parigi, più 0,50% Londra, più 0,44% l'America. Bene, oggi soprattutto Pirelli e Camfin, e qui ci sono voci giornalistiche sul divorzio tra Tronchetti e Provera e l'altro socio forte, che è Malacalza, i genovesi Malacalza. Pirelli più 3,80%. Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Pirelli ma anche Camfin. Sì, sono i titoli oggi in luce, come ho sentito che stavi già anticipando tu. Il piano per il divorzio tra Tronchetti Provera e Malacalza sono indiscrezioni non confermate dalla società, hanno dato il là agli acquisti. Il progetto, secondo il Messaggero, prevede che a Malacalza venga assegnato il 25% di Camfin dopo una scissione proporzionale di GP. In realtà poi gli stessi Malacalza fino ad oggi hanno detto che non sono interessati solo a una, che sarebbero interessati solo a una quota diretta di Pirelli, quindi insomma è da chiarire come questo possa avvenire. Il passaggio successivo sarebbe la costituzione di una nuova società da 200-250 milioni, composta da Clessidra, Intesa e Unicredit. I dettagli del quotidiano sono molti, ma appunto la società non ha voluto confermare. C'è un altro elemento però che oggi ha influenzato i titoli. Ieri sono usciti i dati sul mercato degli pneumatici in aprile, sia i dati di Pirelli che di Michelin, che vedono una decisa crescita, soprattutto per Pirelli. Il dato positivo è la forte crescita del settore in America Latina, dove Pirelli è molto più esposta di Michelin. Quindi diciamo che oltre alle speculazioni e alle indiscrezioni ci sono anche proprio dei dati che riguardano il business della società. Ancora per quello che riguarda il gruppo di Camfinger, tu parlavi, invece c'è un altro titolo che oggi si è mosso un po' in rispolvero, che è la Popolare di Milano più 2,90%, anzi più 1,60%, mentre Banca Popolare più 2,90%. Ma cos'è? Perché insomma la Popolare di Milano ha visto uno stop molto brusco al processo di quotazione, cioè meglio di non di quotazione, di privatizzazione, di trasformazione, sì, in SPA, rispetto all'attuale forma giuridica di Banca Popolare, che la renderebbe più contendibile. I sindacati, i dipendenti si sono opposti. Io non so se per il bene della banca o per il loro interesse personale di mantenimento del potere di forza, perché diciamola tutta, lo statuto delle banche popolari permette di esercitare un grosso peso anche a chi ha poche azioni, perché ogni testa pesa un voto al di là del numero di azioni che tu hai, per cui non vorrei che dietro ci fosse un mantenimento dello status quo dei poteri di forza da parte dei sindacati della banca. Perché oggi sale però? Infatti tutto il discorso che facevi tu si riflette nelle quotazioni, perché dopo la notizia dello stop alla SPA il titolo era sceso molto, no? È un'operazione questa che piaceva al mercato e quindi non viene apprezzato questo stop. Oggi il titolo sale, ma non sale da solo, sale insieme a tutte le popolari. Tanto sale dopo aver perso ieri il 3,5% a causa del downgrade di Moody's, quindi ci sono ricoperture. Oggi è un mercato fatto molto da movimenti tecnici, quindi si ricomprano i titoli che sono stati penalizzati ultimamente e si riaggiustano le posizioni. Vanno bene tutte le banche, tra i migliori troviamo le altre banche popolari. Oggi, a partire dal Banco Popolare, è andata bene anche la Popolare Emilia Romagna, quindi un movimento un po' generalizzato. C'è la notizia del rinvio dei test dell'EBA al 2014, quindi gli stress test sullo stato di salute delle banche, che dovevano essere quest'anno, si terranno solo nel 2014, e questo ha fatto bene a tutto il comparto in Europa, quindi questi titoli diciamo hanno preso slancio da questo e sono stati un po' più comprati delle altre banche. Sì. Fiat, abbiamo letto i dati auto, perde l'1,50%, però le matricolazioni in Europa non sono andate così male, ma non per il gruppo Fiat. Esatto, cioè che ha perso più del mercato. Infatti il dato di aprile è stato positivo per l'Europa, sono andate bene, c'è stata una ripresa, la prima dal settembre 2011, ma per Fiat siamo ancora a meno 9,8%, meno 4% per il marchio. Per quanto riguarda la quota, nei 4 mesi è più o meno stabile rispetto allo scorso anno, 6,4% da 6,5%, quindi il dato ancora per Fiat non è positivo, non si vede questo recupero. Anche qui movimento tecnico, però ricordiamoci che il titolo era cresciuto molto nelle ultime sedute, siamo a un più 20% complessivo da inizio maggio, quindi diciamo che le vendite oggi sono anche per questo. Ancora per quello che riguarda altri titoli, Luxottica meno 2%, ma il lusso molto era cresciuto in questi giorni. Oggi per quello che riguarda invece il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, Gian Piero Pesenti ha deciso di lasciare dopo 9 anni la carica di presidente del patto. Lo dico per inciso. Saipem meno 1,17%, Mediobanca meno 0,70%, migliori e peggiori in assoluto, Hi-Real meno 4,40%, Bastoggi meno 4,20%, Neurosoft meno 4,1% e Compagnia della Ruota meno 4,1% anch'essa, come Italmobiliare. Fronte opposto, Poligrafici Editoriale più 13,70%, Biancamano più 8,5%, Seat sulle risparmi più 5,36% e Monriff più 4,26%. Grazie a Chiara Di Cristoforo e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colle Sole 24 Ore. E buon weekend. Non vi dico le ipotesi che stanno circolando su perché Santin abbia avuto 3 coperti ma ha mangiato 6 primi, 6 secondi. Allora, le due ipotesi più gettonate, mi riferisco all'ex consigliere del PDL della regione Friuli Venezia Giulia, a cui la Corte dei Conti ha chiesto di giustificare 10.000 euro di spese in ristoranti, tra cui una famosa cena in un ristorante stellato pagata 1.200 euro in 3 coperti, con 4 bottiglie di vino, 5 bottiglie di vino. C'è chi dice che in realtà abbiano gonfiato i conti, cioè sovrafatturato, tanto se lo faceva rimborsare. C'è chi dice che il vino se lo sono portati via e fatto take away, e c'è chi avanza l'ipotesi, diciamo, che si potesse dire che erano solo in 3, ma in realtà magari erano accompagnati. Ma dai, ma non scherziamo, ha mangiato tanto. Chissà se poi sono andati a ballare questa musica Santini e i suoi due ospiti. Con quello che si sono magnati, dubito potessero fare molto a parte rotolare sulla pista, però magari appunto erano veramente in 7. Allora, il governo e il Consiglio dei Ministri di oggi, adesso arriviamo a tutto, però ricordate che Enrico Giovannini, ministro al lavoro, ha annunciato, assieme poi oggi a altre cose annunciate e spiegate meglio dal Presidente del Consiglio Letta, mi riferisco al rifinanziamento della Cassa Integrazione in Deroga, ha annunciato che entro giugno arriverà un piano per l'occupazione per i giovani, soprattutto sulla situazione dei NEET, ossia quei giovani che non studiano, not educated, employed, no? E non studiano né lavorano. Ecco, di questo vorrei parlare, prima di arrivare poi a tutto il tema del Consiglio dei Ministri, con chi rappresenta l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro. Rosario Rasizza, presidente di Assosom, buonasera. Buonasera. Lei è anche il numero uno di Open Job Metis, se non ricordo male. Sì, sono l'amministratore delegato di Open Job Metis e presidente di Assosom. E io infatti, come presidente dell'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, volevo sentirla, perché mentre in Germania abbiamo la notizia che sono oltre 33.000 i posti da apprendista disponibili, più 12%, le imprese hanno sempre più difficoltà a occupare i posti di apprendistato. Abbiamo in Italia una disoccupazione giovanile che ormai è vicina al 40%, il dato dell'Istat di marzo, e un vero e proprio crollo delle collaborazioni e del lavoro intermittente nell'ultimo trimestre del 2012, meno 25%. Questo emerge dal monitoraggio dell'ISFOL sulla riforma Fornero, e nel quarto trimestre appunto le collaborazioni hanno fatto un meno 25% rispetto a un anno prima, un po' più in aumento i contratti a termine. Voi che cosa chiedete? Una modifica della riforma creando una maggiore flessibilità in entrata e anche, diciamo, un ruolo più forte di quelle che sono le agenzie che hanno contratti in somministrazione? Cioè, io lo spiego a tutti, uno viene assunto da voi e poi voi girate, diciamo, questo contratto a vostri clienti, no? Sì, il ruolo di un'agenzia per il lavoro è proprio quello di facilitare, agevolare l'incontro fra la domanda e l'offerta. Tutte le agenzie, ricordo che per legge sono agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro, cioè io e lei non possiamo decidere di fare un'agenzia per il lavoro se prima non otteniamo un'autorizzazione ministeriale. È proprio in forza, in virtù di questa autorizzazione ministeriale, che non c'è nessuno dei nostri lavoratori che va in un'azienda a lavorare e non ha pari diritti e pari doveri di un lavoratore inserito direttamente in azienda. Ecco, partendo da questo presupposto, noi chiediamo in prima battuta che chi dovrà da oggi in avanti occuparsi del mercato di lavoro si ricordi che in Italia esistono le agenzie per il lavoro che sono regolarmente autorizzate e quindi che ci convochino al tavolo della discussione. Non è successo per la riforma Fornero, io spero che questo nuovo governo ci convochi quantomeno per parlare delle nostre idee e di che cosa noi tutti i giorni viviamo sul territorio. Ecco, nel concreto che cosa chiedete, visto che il ministro Giovannini ha detto arriverò con un pacchetto per il lavoro giovanile entro, diciamo, giugno, per l'occupazione dei giovani entro giugno, voi che cosa proporreste se convocati? Noi, se convocati, proporremmo in primo luogo di non immaginare nessun tipo di incentivo esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato. Purtroppo le aziende, che sono il luogo dove un lavoratore deve svolgere la propria attività, sono allo stremo per tanti motivi, sono allo stremo perché hanno problemi finanziari, perché gli ordinativi si sono ridotti, e quindi immaginare esclusivamente incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, è purtroppo un'utopia. Allora noi diciamo… Cioè dite, tanto se un'impresa in difficoltà non è con un 10-20% di minor carico fiscale che tu vai a assumere uno per sempre, ho capito bene? Esattamente, perché? Perché mi piacerebbe poterlo assumere per sempre, sarebbe più comodo per tutti, sarebbe bellissimo, sarebbe utile a tutti, ma le aziende in questo momento devono ripartire, e devono ripartire anche dal punto di vista psicologico. Allora, sapere che ho preso una nuova commessa, sono riuscito ad avere un nuovo ordinativo che mi saturerà l'azienda per 6 mesi, perché io in questi 6 mesi non ho la possibilità di inserire in maniera regolare all'interno della mia azienda delle competenze, magari delle nuove competenze, perché il nuovo lavoro che ho preso me le richiede? Ecco, per fare questo noi crediamo di essere uno strumento perfetto. Perché? Perché al termine di questi 6 mesi ci occuperemmo di ricollocare questa persona con ancora più competenze, con ancora più professionalità. Per fare questo noi chiediamo, per esempio, che venga tolta la casualità, cioè noi vogliamo assumere regolarmente, vogliamo inserire le persone, ma senza dover investire troppo tempo per individuare qual è la giusta causale da inserire, perché questo è fonte di contenzioso, questo spaventa le aziende e i clienti. La formazione, io non so se tutti sanno che il settore delle agenzie per il lavoro è l'unico settore che si autogenera della formazione. Circa il 2% del nostro fatturato deve essere da noi investito in formazione. Solo Assosom raggiunge un fatturato complessivo delle 20 agenzie associate di oltre 1 miliardo, quindi il 2% di 1 miliardo sono soldi che noi abbiamo immediatamente disponibili per la formazione. Questa formazione noi la facciamo perché più tu sei formato, più tu aumenti le tue competenze e più tu hai chance per entrare in azienda. Quindi chiediamo la casualità, chiediamo di continuare con il fondo Formatem, che è quello che ci consente di avere questa formazione, e poi pensiamo anche a noi un pochino. Noi pensiamo che, essendo noi sostituti per certi versi della garanzia del pagamento dei lavoratori, anche per noi, quando un cliente è in difficoltà, vi sia quantomeno sulla fatturazione l'immediato riconoscimento del titolo, perché anche per noi è un problema farci finanziare dalle banche. Quindi 3 cose concrete immediate per far ripartire le imprese. Grazie a Rosario Rasizza, presidente dell'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Oggi noi interveniamo con appunto un intervento urgente che, come primo intervento, sospende la rata dell'IMU che le famiglie italiane devono pagare, dovrebbero pagare a giugno, che non devono più pagare a giugno, e si dà un tempo fino al 31 di agosto, tempo entro il quale il governo e la maggioranza che lo sostiene faranno la riforma dell'IMU. Quindi la questione che ci riguarda è una questione in cui con grande nettezza abbiamo preso conseguenza, diamo conseguenza al discorso che in Parlamento abbiamo fatto, sul quale c'è stato il voto di fiducia delle Camere. Sospesa la rata non si paga, entro il 31 agosto verrà appunto approvata la riforma. Vedrete nel testo del decreto il perimetro che noi abbiamo voluto indicare, che riguarda per l'appunto la sospensione della rata. È un perimetro che toglie da questo tema ovviamente tutte le categorie che hanno a che vedere con gli immobili di pregio, le abitazioni signorili, e secondo fattispecie che sono specificamente indicate, che esclude anche terreni agricoli e fabbricati rurali. Allora, questo è l'intervento sull'IMU del Presidente del Consiglio Enrico Letta, sospensione appunto per i terreni agricoli e anche, adesso lo ascolteremo, un'agevolazione per le imprese. La cosa più importante però è che Letta ha chiarito: o il governo riuscirà a riformare l'intero settore della tassazione immobiliare entro il 31 luglio, oppure continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e si pagherà la prima rata dell'IMU il 16 settembre. Dicevo, attenzione per gli immobili che per attività produttive, i capannoni, perché come ha spiegato Letta appunto c'è una previsione di forme di deducibilità dell'imposta pagata sugli immobili. Dentro il testo troverete un messaggio, un segno molto forte di attenzione al mondo delle imprese sul tema dell'IMU, perché nel testo si indica tra le priorità della riforma stessa la previsione di forme di deducibilità dell'imposta pagata su immobili che servono per le attività produttive. Quindi è un primo messaggio molto forte che vogliamo dare al mondo delle imprese in una logica di rilancio. E poi l'altro grosso fronte è quello della copertura della cassa integrazione in deroga. Allora, i fondi vengono trovati in parte dai fondi sulla produttività, viene rifinanziata la cassa integrazione per 1 miliardo, però i sindacati sono arrabbiati, soprattutto la UIL di Angeletti, di Luigi Angeletti, perché dicono che metà della copertura viene reperita dai premi aziendali, dai soldi dei fondi per la formazione professionale. Comunque parte della copertura arriva dai fondi sulla produttività. Il ministro Giovannini poi ha precisato che saranno reintegrati nel 2014. Ma sentiamo Letta. Le coperture del miliardo di euro sono coperture che hanno a che fare, in un caso, mi preme citarlo, con una copertura presa da una voce di bilancio che ha a che fare con il tema del lavoro, in particolare è una parte dei fondi per la produttività, fondi per la produttività, lo voglio sottolineare, che a legislazione vigente e per la situazione attuale del nostro bilancio, quest'anno 2013 non si sarebbe potuto utilizzarli, e vengono quindi usati come copertura temporanea, con l'impegno scritto specificamente nella relazione del decreto a rimettere queste risorse sul tema della produttività, che rappresenta un obiettivo fondamentale per la politica economica del governo, nel momento nel quale faremo e rifaremo l'operazione complessiva. E questo per quello che riguarda la copertura sulla cassa integrazione. Il governo poi ha anche confermato il decreto in discussione in Consiglio dei Ministri, che non permette di cumulare lo stipendio del Premier e dei Ministri con, se sono anche deputati, se sono anche parlamentari. E per quello che riguarda il rapporto con l'Europa, Letta ha detto di essere fiducioso che l'Unione Europea accoglierà gli sforzi dell'Italia, i conti in ordine sono la base per rilanciare la crescita. Il ministro dell'economia Saccomanni ha detto che guarda con ottimismo alla chiusura della procedura di infrazione contro l'Italia sul deficit, che dovrebbe arrivare a giugno. E per quello che riguarda appunto i rapporti con l'Europa, il Premier Letta ha anche ricordato, viste le dichiarazioni di questi giorni, che non verranno scaricati debiti sulle nuove generazioni. Per quanto riguarda il rapporto con Bruxelles, noi siamo fiduciosi che l'Unione Europea colga tutti gli sforzi che l'Italia sta facendo per rimanere virtuosa per rimanere dentro gli impegni che l'Italia si è preso. E noi siamo orgogliosi di poter dire che questi impegni sono impegni di un Paese che, avendo un pesantissimo debito pubblico che il passato ci ha caricato sulle spalle, non vuole fare debiti per il futuro, non vuole scaricare sulle giovani generazioni debiti come purtroppo le generazioni precedenti hanno fatto sulle nostre generazioni. Quindi le scelte che faremo saranno dentro quegli orizzonti, ma sono scelte che saranno molto marcatamente pro crescita, con grande attenzione alle questioni dell'occupazione, e ovviamente il grande sforzo che metteremo in campo sarà attorno alla politica europea. Voi, come sapete, il 27 di giugno un Consiglio europeo molto importante affronterà il tema del futuro dell'Europa, e stiamo lavorando con grandissimo impegno con tutti i ministri coinvolti. Qui ce ne sono alcuni di questi: il ministro degli esteri Bonino, il ministro dell'economia Saccomanni, ma la questione riguarda ovviamente il ministro degli affari europei, tutti gli altri ministri coinvolti. Lo sforzo che stiamo facendo è perché il Consiglio europeo di giugno sia un Consiglio europeo dal quale esce una linea europea nuova, diversa, più attenta ai temi della crescita e più attenta ai temi dell'occupazione, sapendo che questo non è contraddittorio col tenere i conti a posto. Vogliamo tenere i conti a posto e crediamo che tenere i conti a posto sia la base per fare poi la crescita. D'accordissimo su questo aspetto, non sono ad escludendum, non si esclude una vicenda, nel senso che tu puoi mantenere i conti in ordine o comunque continuare a stare attento al deficit, al debito, e avere politiche europee per la crescita. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento Guido Gentili, editorialista anche e soprattutto sul governo, per il Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Un minuto per il traffico e poi ascoltiamo rapidamente il commento del vice premier Alfano, e poi vorrei capire con te, visto che tu avevi detto speriamo che questo Consiglio dei Ministri non vada sotto un livello minimo, diciamo, di accettabilità. Mi sembra che come voto, poi sentirò anche la tua opinione, siamo leggermente sopra il livello minimo, visto che due o tre provvedimenti ci sono, però mi sembra anche che in questo periodo si ragioni molto sulla tenuta, perché qui l'IMU è stata solo rinviata. Le reazioni, in primo luogo quella del vice premier Angelino Alfano: prima palla del governo andata in gol e l'assicurazione per le coperture IMU vi sarà il 100% dei tagli e zero tasse. Non esprimo grande soddisfazione per il Consiglio dei Ministri, perché la mia soddisfazione è grandissima. Lo dico perché la prima palla del governo è andata in gol. La prima palla di questo governo è andato in gol. Consiglio dei Ministri, IMU, Cassa Integrazione, e chi vuol fare il ministro ed è già parlamentare lo fa gratis. Mi sembra un risultato di straordinaria importanza, abbinato a un altro risultato di straordinaria importanza, che la palla è andata in gol e il Consiglio dei Ministri ha stabilito quale sia il 90° minuto della partita, e cioè il 31 agosto. Oh Guido, il 31 agosto è il 90° minuto. Sì. Letta così può anche sembrare quasi un ultimatum. Vediamo se l'ho capita bene. Alfano dice entro il 31 agosto poi dobbiamo trovare i soldi per eliminare definitivamente l'IMU. Sì. Perché è chiaro che se no pagarla a settembre cambia poco rispetto a pagarla a giugno. Però vorrei sentire, viste le tue perplessità iniziali, se anche tu ritieni che una palla sia andata in gol. Io poi sulle palle starei attento, perché però sì, anche perché le palle, appunto, non mi dire che le palle sono due, ti prego. No, la palla comunque, voglio dire, va di qui e va di là, e quindi in questo caso, per stare, diciamo, all'immagine che ha dato il ministro Alfano, forse più che è andata in gol, potrei dire che è stato evitato un autogol, nel senso che c'era anche la possibilità che questa prima riunione, ricordiamolo, questo era il primo atto operativo del nuovo governo Letta, del nuovo governo di servizio Letta, finisse, diciamo, con un esito ancora più esile rispetto a quelle che erano le aspettative. Invece è stata confermata la sospensione della rata di giugno, sul discorso delle coperture finanziarie per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, si è fatto purtroppo ricorso a uno dei fondi che riguardano il rilancio della produttività, cosa di cui, come è noto, l'Italia ha un grandissimo bisogno, ma è anche corretta la specifica che ha fatto il Premier Letta, che tanto non potevamo utilizzarli quest'anno. Quindi, ripeto, è stato evitato l'autogol o è stato fatto un gol, ma siamo al primo minuto della partita. Il problema è c'è un accordo politico dietro, lo sappiamo, in questo governo che è un governo politico di larghe intese, un problema con un accordo secco che riguarda l'abolizione dell'IMU per la prima casa. Questa è la condizione che ha posto il PDL. Tra l'altro vorrei ricordare che il PDL ha posto anche il problema della restituzione dell'IMU che è stata pagata nel 2012, ma comunque andiamo per gradi. Entro agosto deve essere pronta una riforma che riguarda l'intero riassetto della tassazione sulla casa, quindi parliamo di un atto politicamente molto impegnativo, difficile sul piano politico perché tra PD e PDL non c'è perfetta identità dividuta su quella che è la riforma di questa tassazione, ed è difficile sul piano economico perché ovviamente se la riforma è a parità di gettito le cose poi non cambiano moltissimo, quindi se invece riescono a trovare degli spazi finanziari più ampi che consentono di abolire, di intervenire per ridurre la tassazione non solo sulla prima casa ma anche ad esempio sulle attività produttive, beh, questo sarebbe un passo importante, ma allora bisogna vedere dove tagliano, dove prendono i soldi, quindi dove tagliano magari o dove tagliano altre spese, e quindi diciamo è una scommessa non da poco. Il tempo è oggettivamente sono pochi mesi, c'è di mezzo anche la pausa estiva, e quindi è una sfida immane per il nuovo governo, e quindi questa è la vera partita che si giocherà da qui nelle prossime settimane. Sì, una partita non da poco, come tu facevi giustamente notare, perché appunto l'ambizione è alta. Detto questo, però, le previsioni di tenuta, perché insomma qui allora è chiaro che se non si riesce a fare la riforma complessiva della tassazione sulla casa, non so quanta vita possa avere il governo dopo le promesse che ha fatto soprattutto il PD. Vita zero se non riescono a fare questo. Il PDL, anche perché Guido, adesso ragioniamo in chiave teorica, ma se ho ben capito l'unica finestra eventualmente per mandare in crisi il governo Letta è quella da settembre a dicembre, giusto? Perché poi abbiamo la presidenza nel 2014 da giugno-luglio, se non ricordo male, dell'Unione Europea, e mica possiamo andare a elezioni con la presidenza dell'Unione Europea. Certo. I primi sei mesi del 2014 invece? Questa diciamo è l'ipotesi che potrebbe essere sul campo se non si riesce a raggiungere un'intesa ad agosto. Mm-mm. E quindi di tornare al voto nei primi mesi del 2014, perché è impensabile che si possa arrivare alle elezioni, ad elezioni diciamo aperte, quando c'è la presidenza che inizia a giugno, della presidenza italiana. Quindi la scommessa è molto si giocherà anche nel rapporto con l'Europa da qui nelle prossime settimane. Stavo per dirlo, cioè il Consiglio europeo di fine giugno sarà cruciale a questo punto. Consiglio europeo di fine giugno cruciale, e cruciale un appuntamento ancora più vicino che è quello del 29 di maggio, quando verrà diciamo ufficializzata la uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, e lì si potrà capire se ci sono degli spazi al di là di quelle che sono le regole che riguardano questa materia, se ci sono degli spazi per degli interventi in termini, parlo soprattutto di investimento, che non che possono essere non contabilizzati nel deficit, e questo apre diciamo degli spazi, certo, in più. Però anche questa è una trattativa molto difficile, e quindi non dobbiamo farci illusioni, secondo me, su questo secondo punto. No, anche perché, come spesso ripetiamo, la Germania va a elezioni a settembre. Comunque, insomma, le tappe sono quelle: maggio-giugno per l'Europa, 30 agosto per la tassazione sulla casa, eliminazione dell'IMU, e anche direi giugno con il piano per i giovani annunciato dal ministro Giovannini. Grazie a Guido Gentili, grazie un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, comunque vada, il meteo e il resto della vita. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.